Nel giorno più caldo il vero dominatore è l'uomo più freddo, e cioè Denis Menchov, che non a caso, pur essendo russo, vive in una terra caliente come Pamplona. Non inganni il successo di Carlo Sastre, formidabile nel recuperare Popovic e nel conquistare comunque il traguardo di Montepetrano. In realtà in cima resta tutto bloccato, a parte l'avvicendamento al terzo posto tra Sastre e Leipheimer, rotolato quest'ultimo in sesta posizione. No, niente da fare. Menchov prevede ogni mossa come se avesse davanti una scacchiera. Sastre, il più lontano in classifica, lo lascia andare avanti, così come dà semaforo verde anche a Ivan Basso. Ma l'avversario più pericoloso, l'unico che può dargli scacco matto, cioè Di Luca, non lo molla un secondo. Anzi, procedendo in coppia, lo lancia come un segugio a caccia delle due lepri. Ivan Basso viene ripreso facilmente. Sastre, non a caso re dell'ultimo tour, invece conquista il suo settimo successo in carriera. Ma adesso ormai siamo ai titoli di coda. Di Luca ha solo 40 secondi di distacco e si va in Abruzzo. Ma Menchov, il freddo, prepara lo scacco matto.